l'amore ad indicarci la strada del cuore. Popoli sotto un unico sole, la terra tutta, tutta da abbracciare. Saranno guai per chi duro avrà il suo sguardo, per chi vuole restare bugiardo, bruciando tutta la luce del mondo. Evidenti come il sole saranno il nostro quotidiano pane, nostri figli, nostre parole, nostri sogni, nostro volere. Fulmini di cielo stellare cancelleranno ogni dolore. Mai più un perdono da vendicare, mai più un odio da conquistare. Sarà l'amore ad indicarci la strada del cuore. Popoli sotto un unico sole, la terra tutta, tutta da abbracciare. Sarà l'amore la nostra arte migliore a sconfiggere ogni male, a brillare, a brillare. Luminosi campi di grano saranno il nostro pane quotidiano, la nostra nave, la nostra rotta, la nostra unica salvezza. Saremo raggi, comete di albe, aurore limpide, praterie selvagge, una scintilla che ci accomuna. Saremo noi la nostra fortuna. Sarà l'amore ad indicarci la strada del cuore. Popoli sotto un unico sole, la terra tutta, tutta da abbracciare. Saranno guai per chi duro avrà il suo sguardo, per chi vuole restare bugiardo, bruciando tutta la luce del mondo. Indicarci la strada del cuore. Popoli sotto un unico sole, la terra tutta, tutta da abbracciare. Saranno guai per chi duro avrà il suo sguardo, perché vuole restare bugiardo, bruciando tutta la luce del mondo.